noi diciamo no al carbone perché il carbone in realtà per il suo elevato contenuto di carbonio emette, bruciato come combustibile, la quantità maggiore di anidride carbonica per kilowattora rispetto a tutte le altre fonti fossili, quindi come dire, sarebbe un passo indietro rispetto anche alla situazione attuale, sarebbe un passo indietro che ci porterà fuori dall'Europa e che ci porterebbe fuori dal protocollo di Kyoto, che appunto, come prima ricordavo, invece deve essere il futuro, e dal 16 febbraio sarà, dopo la ratifica, l'ultima ratifica della Russia, sarà davvero operativo. Il carbone non è, come dire, non sarà neanche e non sarebbe neanche un risparmio per le famiglie italiane, perché se il carbone è, come dire, più conveniente per i gestori delle centrali, in realtà sarà, come dire, vedrà un prezzo maggiorato e sicuramente non ridotto per quando arriverà sulla bolletta. Noi pensiamo che la situazione così grave dal punto di vista dell'inquinamento del nostro paese e anche dal punto di vista delle emissioni, il protocollo di Kyoto teso alla riduzione dell'emissione di gas di serra in atmosfera, la riduzione sarebbe dovuta essere in questi ultimi 10 anni del 5,6% delle emissioni per quanto riguarda il nostro paese, ebbene il nostro paese ha aumentato le proprie emissioni di gas di serra del 10%. Allora, noi pensiamo che questa situazione richieda subito degli interventi precisi e immediati da parte del governo nei confronti della riduzione della dipendenza dal petrolio, del nostro modello di sviluppo, della nostra produzione di energia, a favore di fonti alternative, cioè di fonti energetiche come il sole, il vento, l'acqua, in alcuni casi anche le biomasse, e pensiamo che invece di andare pensiamo che questa sia la giusta direzione, è quello che vogliamo rilanciare con la giornata di domani, ma vogliamo anche dire no da subito invece a quello che il governo e in prima fila l'Enel pensano sia come dire, la strada da percorrere, cioè quella di ricorrere al potenziamento in alcuni casi, alla riconversione a carbone in altri, proprio di molte delle centrali italiane.